3, 2, 1. Puntata numero 21 dell'incredulo. L'incredulo perché? L'incredulo intanto perché sono io, perché a me non mi fregano, tentano di vendermi, ora telefonano pure dalla banca e tra le tante cose che vendono non fanno più i conti correnti, c'è la palla di vetro, ti leggono il futuro, ti fanno pure i tarocchi o altrimenti quei dipendenti li licenziano e tengono solo i bancomat. Insomma, sono incredulo perché in questo mondo fatto di computer, di matematica, di equazioni differenziali, di gente in camice bianco che fa pure la pubblicità e poi magari sono attori e quelli manco c'hanno la terza media, insomma in questo mondo iperscientifico ci tocca ancora stare a sentire ste panzane, c'è l'energia e poi arriva lo spirito di all'angelo, andiamo ma su, e YouTube pieno invece di esserci tutti questi professori, dottoroni, professoroni a spiegarci come funzionano le cose, come sono scritte sui libri, ci tocca stare a sentire questi telepredicatori. Tuttavia, tante cose si scoprono di nuove e di incredibili, tanto che grandissimi ospedali americani, per esempio l'Hopkins a Chicago, già sono passati alla functional medicine, la chiamano così, e cioè la medicina che non cura più i sintomi ma che lavora sulle cause. Ovviamente questi dottori e queste cure costano un sacco di soldi, se ne permettono solo in pochi, e la domanda è perché? Perché i poveracci hanno da morire. E allora, siccome persino gli scienziatoni si mettono a cercare di capire quello che fino a ora sembrava incredibile ma oggi è praticamente scienza, anche noi qui su Radio Big World, insomma, ve la faccio breve, cerchiamo di informarci un pochino anche noi per non farci fregare, che noi poveracci abbiamo da morire, ci sta bene, ma insomma vediamo di scamparcela in maniera un po' più soft. Per fare questo naturalmente abbiamo non qualcuno che viene dai servizi di medicina del Pentagono, ma qualcuno che si è tuffato, e in questo caso è preferibile parlare al femminile visto che parliamo di una donna, si è tuffata in questo mare magnum delle conoscenze alternative e sta recuperando un sacco di informazioni interessanti. La conoscete, ormai è una voce di Radio Big World, diciamo pure storica in questi tempi in dove in 6 mesi si è già vecchi, e cioè Elisa! Buongiorno Giorgio e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Ormai sono una veterana di questa trasmissione, di questa radio, quindi mi sento un po' vecchia. Elisa, la conoscenza dell'uomo e dell'umanità è antichissima. Fortuna che oggi abbiamo le riviste scientifiche, abbiamo i libri di medicina sponsorizzati dalla Bayer, pertanto oggi parleremo di scienza con la S maiuscola e minuscola, parleremo di tumori legati anche al motivo per cui in alcune persone si sviluppano le metastasi e in altre no, e quindi studi scientifici che lavorano sul terreno dell'essere umano, quindi sulla sua capacità di rispondere a determinate azioni dell'ambiente. Elisa, io sono un ortolano, quando mi parli di terreno mi viene in mente le zucchine, mi viene in mente c'è da dargli il concime, c'è da dargli il ramato. Che cos'è il terreno? Che cosa intendi per terreno? La conformazione interna del nostro organismo a livello complessivo, quindi che tipo proprio di terra siamo, se siamo una terra che fa sì che le piante crescano rigogliose, se siamo invece una terra un po' secchina per cui le piante muoiono subito, o se siamo una terra in cui gli agenti esterni e cattivi riescono a proliferare molto bene. Quindi in questa visione effettivamente siamo un po' degli orti, ognuno è un orticello, e le malattie sono da considerarsi piante che crescono in questo orto o piuttosto delle piante infestanti che cercano di soffocarlo? Delle piante infestanti che cercano di soffocarlo, o delle erbacce, come si dice, che minano il nostro orto, la sinergia del nostro orto. E anche i tumori rientrano in questa categoria? I tumori in sé per sé no, però le metastasi sì. La cosa buffa di quello che vi parlo oggi è che praticamente uno scienziato è arrivato a risalire, a analizzare il terreno dei malati oncologici partendo dai laghi. Praticamente ci sono stati diversi laghi negli Stati Uniti che sono stati praticamente infestati da dei molluschi, delle cozze provenienti da altre regioni, e lui ha cominciato a chiedersi perché questi esseri, in un ambiente ostile a loro, non familiare, siano riusciti a ammazzare tutti gli esseri viventi che c'erano dentro e a prolificare e a prodursi. Appunto, la leggenda narra che lui stava andando a un congresso oncologico, appunto, e si è fermato a praticamente osservare questo lago che fino a pochi anni prima aveva un colore totalmente diverso, e adesso, grazie a queste cozze, diciamo killer, aveva praticamente cambiato colore. E quindi lui da lì ha cominciato a ragionare sul perché alcuni esseri umani malati di tumore, tolto il tumore, senza quasi nemmeno bisogno di fare chemioterapia, guariscono, e invece perché altri sviluppano metastasi in organi completamente distanti da dove è nato il tumore principale. E quindi ha iniziato a studiare cosa dentro i malati oncologici c'era, quindi che tipo di terreno c'era dentro queste persone. D'accordo, molto interessante. Prima però di chiederti i risultati di questi studi, ci fai capire una cosa. Io ritenevo che per tumore si intendesse sì una serie di cellule cancerose che si sviluppano in un posto del corpo, ma che poi si diffondono, e che in qualche modo fosse lo stesso organismo con tante manifestazioni collegate tra di sé. Invece dici che c'è una differenza tra tumore e metastasi. Che differenza è? Che il tumore è, diciamo, dove nasce, no? Dove te lo trovano. Quindi, che ne so, viene un tumore al seno, alla prostata, alla tiroide, che sono molto comuni. Ed è circoscritto lì, quindi è una cellula malata o un gruppo di cellule malate ferme lì. E diciamo che il tumore in sé per sé non è la parte pericolosa. È quando questo produce delle metastasi, quindi quando il tumore, perché il tumore tenta, no, di mandare delle cellule in altri organi, il suo obiettivo è quello di ammazzarti, come le cozze killer, no? Ammazzare tutto quello che c'è. E in alcuni casi queste metastasi non si sviluppano, mentre in altri casi si vede che poi il tumore si è spostato alle ossa, al cervello, allo stomaco, al fegato, all'intestino. E sono tutti figli oppure cellule killer mandate dal tumore principale. Diciamo che sono una conseguenza del primo step. Pensa a te, mi hanno raccontato una storia di un bambino ormai tanti anni fa, un signore adulto ora con dei figli, che aveva una rarissima malattia e aveva tumori e metastasi sparse per il corpo, ma non superavano praticamente l'ombelico. E lui sosteneva che questo lo ha tenuto in vita, poi è stato operato, perché se questi tumori o queste metastasi fossero arrivate, le metastasi per essere precisi, come ci hai spiegato, le metastasi fossero arrivate in direzione del cuore o dei polmoni, lui probabilmente non sarebbe sopravvissuto. E allora, che tipo di terreno trovano questi tumori per proliferare così tanto e per provare a riprodursi praticamente ovunque? È un terreno, diciamo, sotto stress, infiammato, quindi che ha delle difese immunitarie molto più basse rispetto allo standard. Esiste una cellula, è un linfocita, quindi un addetto a difenderci, che è chiamato natural killer NK, sono i linfociti NK, che sono appunto quelli che in un terreno sano riescono a neutralizzare le metastasi. In un terreno, diciamo, un po' più indebolito, con infiammazioni, con quindi una salute un pochino più precaria, per cui il nostro sistema immunitario non riesce a sopperire, questi linfociti non riescono a svilupparsi in maniera tale da riuscire a contrastare le metastasi. Allora, un terreno indebolito, un terreno dove le difese sono basse, come si fa a tenere invece un terreno sano in modo tale che certi tipi di piante infestanti non si manifestino o trovino un ambiente ostile per crescere e riprodursi? È quello che fa pensare alla medicina non più come una causa dei sintomi, ma come una visione olistica dell'essere umano. Quindi per prima cosa bisogna curarsi in tutti gli aspetti, quindi non basta essere apparentemente sano, ma bisogna stare bene in ogni parte del corpo. E appunto la ricerca scientifica parla di questo, di come hanno cercato quindi di lavorare su quelle povere chiavi che tutte le volte ti cito a mio grande dispiacere, ma anche sugli esseri umani malati di oncologici, a stare bene in tutti i sensi, quindi essere felici, avere un cervello che comunque lavora e lavora bene, sentire il cuore che funziona, cuore inteso come apertura verso il mondo, quindi non essere rabbiosi, ottusi, avidi, stare bene in tutti i sensi, quindi prendersi cura dell'uomo a 360 gradi. Quindi è chiaro che le difese immunitarie devono essere elevate, quindi su quello uno può prendere qualsiasi tipo di integratore naturale per far sì che il corpo le sviluppi, però se il resto del nostro corpo non è di pari passo, quindi è inutile pigliarsi 350 integratori se poi di testa sei stanco e stressato, perché questo va a minare il tuo organismo e quindi va a minare anche la risposta delle difese immunitarie. È un lavoro per cui si deve cercare costantemente di stare ogni giorno al meglio possibile con tutti gli aspetti di noi stessi. Hai parlato di avvelenamento, nel senso che è chiaro che il minatore che scende nella miniera di carbone, a forza di respirare la polvere di carbone, è facile che sviluppi una serie di patologie anche cancerose, per esempio ai polmoni o a altri organi. D'altra parte un massone direbbe: ah, non è questione di quello che noi ingeriamo, è questione di come lo trasmutiamo. Però è anche vero che difficilmente i massoni vanno a lavorare in miniera, e d'altra parte effettivamente è vero, Rasputin riusciva a bere qualsiasi veleno senza che gli facesse niente o moltissimo, come farebbe a chiunque altro, o addirittura Papa Borgia, Alessandro VI. Ma al di là dell'avvelenamento, conta moltissimo anche la festa, conta moltissimo anche quello che si vive, quello che si fa, la vita che si conduce. Per esempio, l'arrabbiarsi, per esempio, l'essere in disconnessione con se stessi, lo stress, l'ansia, la paura. Tutti questi fattori psicologici e non fisici, quindi non il cianuro da bere, effettivamente avvelenano il nostro terreno tanto da essere causa di malattia, anche se quella persona magari fa una vita da un punto di vista fisico sanissima. Assolutamente sì, noi come animali siamo in grado di sopperire allo stress, no? Fa parte dell'essere primitivo, è quella cosa che ti fa dire attacco, fuggi. La sensazione è lo stesso, ora noi la viviamo in maniera un po' diversa. Il problema è che quando sei sempre sotto questa sensazione, quindi fuggi attacchi, ci si irrigidisce tutto e le difese immunitarie ugualmente vengono indebolite da questo stato di stress cronico. Perché il tuo corpo non è mai tranquillo, non è mai a riposo, quindi non riesce a rigenerarsi, non riesce a stare in pace. E quindi tutto quello che si fa ogni giorno, la vita purtroppo è stressante ai giorni nostri, ma se noi non riusciamo in qualche modo a riportare tutti i livelli a un normale stato di benessere, di rilassatezza, di connessione con noi, il terreno non riuscirà mai, diciamo così, a concimarsi per far sì che poi sviluppi solo cose belle, ma potrà sviluppare qualcosa che in un terreno arido ci sta. Per chi ha un orto o un giardino, le parole di Elisa hanno molto senso. Effettivamente quello che succede al nostro corpo, così descritto, è comparabile con quello che succede in un pezzo di terra, tanto che lo si decida di coltivare o che si decida di lasciarlo a se stesso. Elisa, quei rimedi non propriamente ospedalieri che hai discusso nel corso delle settimane, quindi fiori di Bach, quindi fiori australiani, ma anche lo zenzero o la curcuma, aiutano a mantenere il terreno sano e a permettere che crescano solo piante buone, chiamiamole così? Assolutamente sì, nel senso che i fiori di Bach vanno a fare un riequilibrio emotivo, quindi se hai paura o se sei arrabbiato, sappiamo che in medicina cinese rabbia e paura sono legati agli organi, quindi la rabbia al fegato, la paura ai reni, e quindi c'è sempre una connessione fra emozione e organo. I fiori australiani possono in ogni modo riequilibrare qualsiasi tipo di malattia fisica, emotiva o psicologica. Lo zenzero aiuta a sviluppare difese immunitarie, così come la curcuma. Sono tutte medicine naturali che fanno sì che noi stiamo bene in qualsiasi aspetto. Ma banalmente, quello che uno deve fare è cercare di prendersi il tempo per sé, cosa che oggigiorno sembra banale, però il giusto riposo, se arriva al limite staccare, il prendersi un giorno di ferie, se si è malati non bisogna per forza andare al lavoro, perché se si è malati vuol dire che il nostro corpo ha bisogno di riposo. E invece ci sono tante persone che arrancano e vanno al lavoro anche se stanno per morire. Non realmente, ma insomma non stanno assolutamente bene. Dobbiamo riprenderci il tempo per ascoltare noi e per prendersi cura in prima persona di noi stessi. Non siamo in grado di fare bene qualsiasi cosa se prima non siamo allineati noi, se prima non stiamo bene noi. Il mondo si vive con occhi diversi quando uno è in grado di dire no, guarda, basta, sono arrivato al limite, mi fermo, prendo una settimana di riposo e poi riparto, e in quella settimana rigenerarsi e non stare lì a computer, a guardare le mail, a rispondere. Si stacca, si spenge il cervello, si pensa a noi e poi si riparte. Sono tutte cose banalissime che ognuno di noi è in grado di fare: prendersi una giornata e andare nel bosco, se gli piace il bosco, andare al mare ora è la stagione bella, andare alla spa, fare qualsiasi cosa che a noi ci piace e ci fa star bene. Perché quando stiamo bene, quando il cuore è contento, il cervello si rilassa, dentro di noi si attuano tanti meccanismi che fanno sì che anche il corpo ne benefici in ogni suo aspetto. Il povero dottor Hammer, gli hanno tolto la licenza e ogni tanto lo mettono alla gogna sui giornali. Lui sosteneva che le cause delle malattie sono effettivamente non da riscontrarsi in dei criteri oggettivi del tipo ho bevuto il cianuro, mi è saltato il fegato, ma è proprio una questione di quello che si vive, quello che si fa, come lo si vive, come lo si fa. Elisa, grazie di averci ricordato che un sano stile di vita non è solo una questione di esercizio fisico, di alimentazione, ma una questione di testa e di come conduciamo la nostra vita. Hai da darci una ultima dritta per cominciare, visto che in questo mondo velocissimo e indaffarato ci siamo tutti? Potrei dire tante cose, però la cosa più banale che mi viene in mente è iniziare ad amarsi e pensare che per poter essere utili agli altri in questo mondo, per prima cosa bisogna voler bene a noi. Odiamo gli altri perché odiamo noi stessi, i buddisti ci vanno a nozze con queste cose. Elisa, grazie, grazie agli ascoltatori di Radio Big World, grazie a Radio Big World che ci manda in onda. Grazie a te Giorgio, grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima puntata.